Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Buongiorno a voi e benvenuti e buongiorno al mio inquilino del sabato, Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano. Alberto, buongiorno e bentornato. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, direi oggi, Alberto, una storia dura che possiamo raccontare ai nostri figli. Forse i nostri figli se la saranno magari già sentita raccontare, ne parleremo per aprire una finestra su un problema difficile, molto pericoloso, che ci coinvolge tutti. Tutte le persone che hanno figli in età dell'adolescenza sono un po' impaurite sempre da questo problema. Parliamo di droga. Alberto, una puntata che vi consigliamo, se avete i figli in giro per casa, di ascoltare insieme. Eventualmente andatela a recuperare tramite podcasting, mettetela nel loro iPod. Credo che ci sia molto da imparare, e invece di partire dalla solita mail dove un genitore racconta un problema, oggi abbiamo una storia raccontata dalla protagonista. Ve la facciamo ascoltare e poi parleremo con lei. È una sera di ottobre del 1999. Esco con gli amici dell'epoca. Andiamo in discoteca. Ho la voglia di divertirmi di tutte le ragazze di 17 anni. Non ricordo chi me l'abbia offerta. Mezza pasticca di ecstasy, un quarto più un quarto. Qualcosa di mai visto prima. L'ho presa. Non l'avevo mai fatto. Non l'ho fatto più. Sono le parole di Giorgia che, dopo aver assunto quella mezza pasticca, comincia a sentirsi male il giorno dopo. Va in ospedale ma la rimandano a casa, credendo che si tratti di anoressia. In realtà la diagnosi è un'altra: epatite tossica fulminante. Avevo bisogno di un trapianto di fegato, altrimenti sarei entrata in brevissimo tempo in coma irreversibile. La ricoverano al Niguarda, dandole al massimo 7-8 ore di vita. Giorgia resta in ospedale 2 mesi, gran parte dei quali in terapia intensiva. È allora che mi sono detta: se sopravvivo, racconto tutto. A chi le chiede se quella leggerezza fosse il frutto di compagnie sbagliate, lei risponde che probabilmente, se fossi stata da sola, non l'avrei fatto, è vero, ma non ho mai avuto spirito di emulazione. Non fatevi ingannare anche voi. Quando vi offrono qualcosa, dite no. Io alla mia vita ci tengo. Il ricatto è facile, lo fanno tutti, fallo anche tu. Invece no, non volersi omologare comporta magari qualche incomprensione, qualche amicizia che finisce, ma è l'amarezza di un momento. Durante la convalescenza mi sembrava che tornare a gustare le piccole cose di ogni giorno fosse una conquista. Ho iniziato a soffrire davvero un po' soltanto dopo, come se al male fisico si fosse sostituito un altro male, il male di vivere. Poi il tempo ha curato anche quelle ferite e da 2 anni ne sono uscita. Il male di vivere che si è preso gli anni migliori della giovinezza non è passato invano. Tante persone mi hanno incoraggiato a tenere fede a quella promessa fatta nei giorni duri dell'operazione, a raccontare quel che mi era successo. E Giorgia è in linea con noi, pronta a raccontare la sua esperienza. Giorgia, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Giorgia, in studio con noi abbiamo anche il dottor Paolo Marzorati, che è medico psicoterapeuta, lavora presso il servizio di tossicodipendenza dell'ASL di Milano. Insomma, quella sera dell'ottobre 99 la tua vita è cambiata. Sì, assolutamente sì. Come è stato riassunto, io ho dovuto subire un trapianto di fegato dall'assunzione di in tutto mezza pastiglia di ecstasy, e perché ho avuto il fegato che praticamente ha avuto una necrosi epatica, e quindi il fegato in realtà era morto e quindi ho dovuto sostituirlo, e ho avuto pochissimo tempo, quindi ho avuto anche una grandissima fortuna. Certo. Ad avere un fegato compatibile a disposizione. Sì, esatto. Senti Giorgia, e tu questa esperienza la stai raccontando in giro per le scuole d'Italia? Sì, avevo promesso di farlo, e inizialmente ha portato avanti questa promessa mio padre, perché io non ho avuto problemi fisici ancora per altri anni, e poi un bel po' psicologici. Quindi sono riuscita a a farlo solo ultimamente, quindi è da un annetto, 2 anni più o meno, che porto avanti con mio padre questa cosa, mentre mio padre ormai sono 9 anni. Quando tu parli ai ragazzi, racconti la tua storia, che reazioni vedi nei loro occhi e soprattutto che percezione secondo te hanno i ragazzi della reale pericolosità di queste sostanze? Beh, allora, diciamo che io e mio padre andiamo nelle scuole a parlare a ragazzi più giovani, cioè delle medie, praticamente, sì. Proprio perché hanno maggiore attenzione, nel senso che ragazzi magari più grandi hanno anche già provato, hanno già avuto a che fare con queste droghe, quindi mi vedono un po' come, tra virgolette, la sfigata della situazione, perché loro hanno comunque avuto situazioni simili dove non è successo nulla, e quindi pensano che sia stata solo sfortuna e quindi tendono ad ascoltare di meno, mentre ragazzi più piccoli, non avendo ancora magari avuto determinate esperienze, sono più propensi ad ascoltare, certo, e a fare tesoro di quello che dico. Poi ovviamente non tutti, però insomma la mia idea è che ognuno può scegliere di fare ciò che vuole della propria vita, però l'importante è che siano informati, che sappiano cosa vanno incontro. Non come me, che io ai tempi sapevo sì che era una droga, ma se avessi mai saputo che si va incontro a un possibile trapianto piuttosto che alla morte totale per solo mezza pastiglia, penso che non l'avrei mai fatto, ecco. E quindi credo che sia estremamente importante un'informazione, cioè che i ragazzi sappiano per poter poi scegliere quello, quello che rischiano. Intanto io vi ricordo il nostro numero verde se volete intervenire, 824 0024, per parlare con Giorgia, per parlare con i nostri esperti. Tra l'altro, dottor Marzorati, Giorgia ha sottolineato secondo me un aspetto importante, cioè dice se io vado a parlare con i ragazzi del liceo che magari hanno già avuto esperienze, hanno già usato queste sostanze, faccio un po' la figura della sfigata e quindi di una che ha avuto la sfortuna che le cose non andassero per il verso giusto, mentre con i ragazzi più piccoli riesco più ad entrare in contatto con loro e a informarli. In effetti i ragazzi usano queste sostanze e lo fanno con grande disinvoltura, un po' perché nell'adolescenza non si ha la percezione del rischio, ma forse anche perché non sono adeguatamente informate sui rischi che corrono. Ma in effetti il tema dell'informazione sulle sostanze d'abuso è abbastanza sottovalutato. Generalmente gli adolescenti ormai trovano in rete, nel web, tutte le informazioni su come usare le sostanze, su come consumarle e anche dove trovarle. Per cui se la cercano loro in un modo, diciamo, alternativo rispetto allo spazio istituzionale. E Giorgio ha sottolineato un aspetto importante, l'imprevedibilità degli effetti. È vero che molte sostanze contengono un principio attivo farmacologicamente riconoscibile. Il problema è che nella maggior parte dei casi questo è tagliato con molteplici altre sostanze e la reazione tossica è una reazione possibile, non così frequente ma sempre possibile. Quindi non è mai a priori definibile questa sostanza che effetto abbia nell'organismo di un individuo, che probabilisticamente i rischi diciamo siano meno gravi apparentemente può essere anche vero, però la reazione tossica è un evento che bisogna sempre tenere presente. Quindi una prima regola è che quando i ragazzi mettono in bocca qualcosa non sanno realmente cosa c'è dentro e quindi davvero potrebbero intossicarsi non col principio attivo di cui cercano l'effetto, ma con le altre sostanze con cui quella pasticca è tagliata. Voi genitori, cosa dite ai vostri figli? Che percezione hanno del rischio i vostri figli? Come ne parlate insieme? Questa casa non è un albergo. Come parlate di droga ai vostri figli? Abbiamo in linea con noi Giorgia, abbiamo sentito la sua storia, ma voi credete che le storie come quelle di Giorgia che vi stiamo raccontando possano servire a modificare il modo in cui i ragazzi e le ragazze vedono queste sostanze? Abbiamo già numerosi messaggi, Giorgia, ci sono già tanti messaggi di insegnanti che vogliono mettersi in contatto con te in modo che tu possa andare a raccontare la tua storia nelle loro scuole. Possiamo dire ai nostri ascoltatori di scrivere a essere benessere @radio24.it e poi noi inoltreremo sicuramente i vostri contatti a Giorgia. Intanto Alberto. Giorgia, proviamo a immaginare che l'equipe del dottor Marzorati avesse potuto entrare nella tua classe, nella tua scuola, una settimana prima di quella famigerata sera in cui tu hai assunto la pasticca, cosa avresti avuto bisogno di sentirti dire, di sentirti raccontare? Cosa sarebbe stato davvero preventivo per te per evitare la leggerezza di quel momento che ti ha cambiato la vita? Beh, sicuramente non ho specificato il fatto che in quell'anno fuori da scuola giravano dei volantini. Infatti tutta la mia classe aveva ricevuto questi volantini dove praticamente il Ministero dei Tempi della Salute praticamente dava un'informazione, cioè come assumere la droga nel migliore dei modi. Quindi, in che senso, scusa? Era un opuscolo di riduzione del rischio. Della riduzione del rischio, sì. Esatto. Quindi diceva, c'era il disegnino che insomma era molto accattivante per i giovani, quindi disegnino fatto un po' per farci leggere, eccetera. E dava consigli. Uno di questi consigli era: se vuoi assumere una cala, cioè una pastiglia, prendine mezza e poi bevi tanta acqua, non mischiare con alcol. Bagnati frequentemente perché la temperatura si alza, tutte queste cose. Quindi io ho fatto esattamente quello che c'era scritto di fare. Cioè tu pensavi di fare una sperimentazione protetta in quelle... No, beh, sperimentazione, ho detto, faccio una cosa che sicuramente sapevo che non era rischiosa. Bene, come le sigarette, no? C'è scritto il fumo uccide, però dici te ne fumi una, non ti succederà nulla. Quindi ho detto, vabbè, ok, da 17enne sicuramente io non voglio togliermi nessuna colpa, perché io sono stata una ragazzina sciocca, sicuramente superficiale, e che ha pagato e continuerà a pagare la sua superficialità di quel momento. Quindi io non mi tolgo nessuna colpa di ciò che ho fatto. Però tu dici, a me sarebbe... ammetto che a me sarebbe servita sicuramente un'informazione diversa. Perché io alla mia età, leggendo che comunque una persona adulta così comunque importante scrivesse una roba del genere, ho detto sì, mi farà male, ma quanto mi può far male? C'erano un po' per le istruzioni per l'uso. Dottor Marzorati, io non ho mai visto questi, non sono a conoscenza di questi opuscoli di cui ci parla Giorgia, e raccontati così mi sembrano un po' pericolosi, sì. Insomma, ecco, possono un incitamento ad usare la sostanza, ecco, se non un incitamento, sicuro. Un in modo realtà, meno rischioso per, sì, utilizzarlo. Lascio a lei la parola da tecnico. Ma allora, anche io non ho avuto modo di leggere questo opuscolo, però immagino che gli esperti del Ministero abbiano cercato, poi non so con che risultato, di tutelare i giovani consumatori. Guardate, non dovete usarla, ma se capitasse mai, questo è il modo per farvi meno male, non più sicuro. Ecco, ma un'informazione, lasciamo ecco, la fonte, eccetera, perché non abbiamo potuto fare ricerche ad hoc. Dare questo genere di informazione ai ragazzi mi sembra molto rischioso comunque. Allora, è molto difficile riuscire a trovare un canale comunicativo con gli adolescenti, perché è stato anche visto che l'informazione solo negativa sul fatto di esprimere rischi non paga, anzi, molto spesso è sfidante. L'adolescente ha una sottovalutazione, ma anche una sfida nella dimensione del rischio, e questo gli interessa poco. C'è una sensazione di invulnerabilità, di onnipotenza, anche durante i nostri colloqui che facciamo nei servizi. È uno degli argomenti meno modificabili. Sì. Può essere in realtà più utile aiutarli a comprendere che questa sostanza non permette di sentire cose che potrebbero sentire in modo diverso, magari riuscendo a comunicare meglio i sentimenti, a stare con gli altri in un modo più empatico, senza il bisogno di una sostanza altra. Abbiamo in linea con noi Bruno, che ci chiama dalla provincia di Milano, 824 0024. Benvenuto Bruno. Sì, buongiorno, ascoltavo con interesse, ho chiamato. Io ho 41 anni e ho due figlie, la più grande ha 9 anni, so che avrò ancora 3-4, forse sono fortunato, 5 anni di relativa tranquillità, poi alcuni argomenti li dovrò affrontare. Io vengo da un'epoca ormai in cui insomma andava per la maggiore il fumo, la marijuana e cose abbastanza quelle che considerate droghe leggere, e per noi invece il buco, la droga pesante, era qualcosa di estremamente negativo, ma perché chi la consumava era una persona negativa, sì, era vista negativamente. Quella droga era associata assolutamente alla morte e alla rovina di una vita. Quello che noto adesso, che ho notato negli anni, a iniziare dai primi acidi, i primi giocheri, i francobolli e così via, è che non è più considerato così. Quindi sì, il genitore o l'educatore adesso ha una difficoltà in più nel non poter più mostrare la droga per quello che è realmente, perché comunque poi va bene, altri metodi per alterare la realtà ci sono e ci saranno sempre. Però ecco, adesso abbiamo questi problemi, che la droga è vista in qualche modo come semplicemente uno sballo, non ti rovina niente, anzi ti fa godere la vita in modo un po' diverso. Non è così, e secondo me il fatto di non mostrarlo, anzi educare a prenderla il meglio possibile, orco Giuda, ci dà molte armi in meno a noi genitori e agli educatori. Ecco. Bruno, io sono completamente d'accordo con lei. Secondo me il ruolo dell'adulto, educatore, genitore, insegnante che sia, è quello di sospingere i ragazzi verso una crescita che ha una tolleranza zero verso le sostanze d'azione psicotropa. Il divertimento sta nel costruire relazioni che ci fanno bene, nel trovare situazioni dove riusciamo ad essere realmente noi stessi, e questa idea di una droga che invece fa divertire di più, secondo me molto sostenuta anche da alcuni dei personaggi della cultura popolare che più piacciono ai ragazzi. Cioè è incredibile secondo me sfogliare alcune riviste, per esempio di musica, dove davvero i divi pop del momento raccontano con molta facilità le loro incursioni nel territorio dell'uso di sostanze. Ecco, questo è proprio generare un clima culturale che alleggerisce l'idea che una cosa del genere fa male al percorso di crescita, e su questo gli adulti devono essere chiari. Paolo ci chiama da Milano. Buongiorno Paolo, benvenuto. Sì, buongiorno. Niente, la mia testimonianza appunto, diciamo, diretta è quella che io partecipo a rave party in qualità, diciamo, addetto alla sicurezza, questo all'estero, perché qua in Italia, essendo illegali, se c'è la sicurezza, ma è una sicurezza fittizia. Sì. E la mia esperienza diretta, insomma, vi posso dire che ho visto cose allucinanti. Di recente ero qua in Svizzera, rave party, dove la sicurezza si occupa praticamente di salvare le persone, non perché loro si picchiano fra di loro, perché dobbiamo stare attenti che ci sia gente che magari non collassa in giro, non ci muore vicino. Io ho dei filmati, anzi mi piacerebbe anche contattare la ragazza che ha portato la sua testimonianza, Giorgia, perché ho dei filmati di ragazzi in mezzo a 2000 persone completamente nudi che urlano alla luna. Noi dobbiamo prenderli, legarli sulle barelle, disidratati, dopo 2 ore che urlano, continuano a dimenarsi, dobbiamo portarli all'ospedale, cercare di salvarli, non si sa chi siano. Delle cose, signori, da pelle d'oca, e sono cose che poi arriveranno anche in Italia, che continuano, diciamo, l'esempio che abbiamo sotto gli occhi di rave che illegali, dove nessuno poi li vigila. Noi, almeno all'estero, ti dicono vai sulla montagna, fai quello che vuoi, però ti danno una tenda della Croce Rossa, una pista d'atterraggio dell'elicottero, c'è la sicurezza, per quanto assurdo, però c'è qualcuno che vigila. Qua invece purtroppo tra musica, droga, c'è gente che crepa e non si sa neanche perché. E io direttamente dei filmati fatti da me col cellulare, perché veramente delle cose da brivido, vederle vi posso garantire che sono scioccanti. Quando va bene li portiamo all'ospedale, se no c'è gente che ha crisi epilettiche in terra. Immaginatevi una distesa su un prato con 3000 persone, con gente nuda che urla alla luna, che non è più sul pianeta. Grazie Paolo per la sua testimonianza. Abbiamo, dottor Marzorati, tanti spunti su cui discutere nella trasmissione di oggi. Sicuramente c'è anche il rischio che i nostri ragazzi facciano uso di queste sostanze pensando di farlo saltuariamente, quindi di non essere imbrigliati in questa dipendenza, e quando si arriva spesso è troppo tardi. Come si parla ai ragazzi? Quali sono i messaggi che arrivano? La stessa nostra ragazza Giorgia ti diceva quanto sia difficile, anche noi nella famiglia lo constatiamo, perché non è facile dire ad un ragazzo non farlo, è pericoloso. Voi ai servizi come cercate di agganciare questi ragazzi? Innanzitutto si cerca di creare una relazione con questi ragazzi, e uno degli aspetti che notiamo è che spesso all'interno delle famiglie le relazioni non sono mai molto serene e distese. e spesso manca anche quel calore affettivo e quella capacità di condividere i sentimenti e le emozioni che spesso, anzi direi invariabilmente, servono a un bambino adolescente per creare quel nucleo caldo, quella forza di poter mantenere una propria autonomia, una capacità di decidere che in adolescenza è inevitabilmente messa in discussione, no? Certo. Se questa manca, dire di no è già difficile, diventa quasi impossibile. Soprattutto perché tiene lontano dal gruppo di pari, che anche qua lo direi, è vero che è un comportamento diffuso, ma la maggior parte dei ragazzi non consumano sostanze. Adesso noi andiamo a sentire le informazioni del nostro GR, ci raggiungerà anche tra poco Raul Bova, che è protagonista in questi giorni sugli schermi con un film, Sbirri, che tratta proprio di questo tema. Alberto? Dobbiamo salutare invece Giorgia, che non può rimanere con noi, ma abbiamo molte richieste per contattarti e per parlare nelle scuole, per cui continuate a mandarci email a essere benessere@radio24.it. Giorgia, noi te le gireremo. Perfetto, grazie mille. Grazie Giorgia, un abbraccio. Buona giornata a tutti, grazie. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di droghe, insieme a noi in studio il dottor Paolo Marzorati, come sempre Alberto Pellai. Direi di andare al nostro consiglio di lettura e poi di riprendere con le vostre telefonate all'824-0024. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola La ragazza che non voleva crescere, di Isabelle Carreau. Per ricevere questo libro a casa dovete essere il primo ascoltatore a raggiungere il nostro indirizzo di posta elettronica essere benessere@radio24.it, in cui dovete mettere il titolo del libro, i recapiti e il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Dottor Marzorati, Giorgia ci ha raccontato una pasticca e le è capitato, insomma, è stata, no, dovuto ricevere un trapianto di fegato. Però si legge, si sa che sono cambiati radicalmente i modi di assunzione di queste sostanze. Ci sono sostanze tra le più disparate, ci sono ragazzi che si calano psicofarmaci, tranquillanti, bevono alcolici, quindi fanno questi cocktail esplosivi che alla fine permettono di entrare in dimensioni diverse. Quindi è un panorama sempre molto variegato, difficile da tenere sotto controllo, non solo per voi addetti ai lavori, ma anche per noi genitori a casa. Sì, in effetti è proprio così. È cambiato molto lo stile di consumo e la quantità di sostanze in commercio. Rispetto all'ascoltatore di prima che parlava del drogato eroinomane di 10-15 anni fa, la situazione è molto diversa. Ormai si parla di poliassunzione, anche i ragazzi entrano in contatto con le sostanze generalmente con l'alcol e il fumo. Poi questo avvia in determinati luoghi di aggregazione il contatto con una variegata panorama di sostanze che vanno dalla marijuana a psicofarmaci a cocaina, ecstasy, anfetamine e via così. Abbiamo in linea con noi, come anticipato, Raul Bova. Buongiorno. Buongiorno. Io devo dire che consiglio ai genitori di andare a vedere il suo film insieme ai ragazzi, perché è davvero un film che fa trovare le immagini e le parole e soprattutto fa capire anche a noi genitori che cosa ci sta dentro là nei ragazzi e quanto anche lavorano le squadre di polizia per cercare di arginare questo problema. Lei tra l'altro ha vissuto proprio per un intero mese con il nucleo speciale di polizia. Che cosa viene fuori? Quanto l'ha arricchita fare questo film? Ma a me personalmente come genitore moltissimo. Quello che ho capito da questa esperienza è in realtà che la polizia è in qualche modo anche le mani legate, cioè nel senso che fa un lavoro di tamponamento, cioè che comunque cerca di un po' rendere meno facile il commercio di queste sostanze. Il vero lavoro bisognerebbe farlo ovviamente in famiglia, cercare di parlare con i propri figli, cercare di instaurare un rapporto, di parlare di questo argomento che molte volte diventa un tabù, no, tra genitori e figli. Quello che abbiamo notato noi è che con Sbirri tanti genitori sono andati al cinema con i figli 14enni, 15enni, anche più grandi, e hanno avuto l'opportunità di parlarne di questo tabù, magari anche in terza persona, no? Certo. Però si è aperto un discorso, si è aperto un dialogo, e questo penso che sia anche molto importante, perché un po' il genitore ha la remora di parlarne con il figlio pensa che il genitore sia troppo severo o troppo lontano da questa realtà, e quindi non si affronta mai il problema. Raul, lei nel film impersona Matteo Gatti, che è un padre che perde il figlio proprio a causa dell'assunzione di una pasticca, un po' come è successo a Giorgia, stessa situazione molto pericolosa che abbiamo sentito nella prima parte del film. Secondo lei, proprio come padre, al di là del lavoro che fa, del film che ha girato, cosa serve in una famiglia prima di arrivare a quello stadio? Cioè, lavorando con ragazzini o crescendo ragazzini tra i 10 e i 14 anni, cosa è davvero protettivo all'interno della famiglia? Ma ci sono delle età molto a rischio, cioè il periodo dell'adolescenza è un periodo in cui il bambino cresce, in cui incomincia ad avere i primi contatti con la società, con la scuola, con tutto l'ambiente circostante, quindi cercare di preparare il più possibile il figlio a quello che sarà la sua vita futura, cercare di prepararlo ad eventuali meccanismi e dinamiche psicologiche che poi si scatenano appunto nei vari ambienti, dalla scuola alla strada, agli amici, alle feste e via dicendo. Quindi cercare di un po' preparare a dire di no, a rendersi conto, a capire che quelle famose sostanze che tanto vengono prese e assunte per divertirsi in realtà sono delle vere e proprie fonti e possibilità di morte, perché comunque soprattutto in sbirri abbiamo fatto un'intervista ad una farmacologa scienziata che opera sui farmaci e soprattutto sulle droghe. C'è un punto del film in cui spiega quanto l'assunzione di quella pasticca, che può sembrare innocua perché magari c'è il disegnino della colombina o di Superman o la faccina sorridente, in realtà distruggono veramente tutti i centri nervosi, le terminazioni nervose del cervello praticamente dopo un'assunzione di una settimana di ecstasy sono ridotte veramente al 20%, quindi significa che veramente brucia il cervello, quindi, è vero. E la domanda infatti è proprio: vale la pena divertirsi una sera e compromettersi una vita intera? Questo è una domanda. Vi lasciamo con questa domanda di Raul Bova, che sappiamo essere in macchina negli spostamenti. Ricordiamo Sbirri, un bollino blu di Questa Casa Non È Un Albergo, soprattutto da vedere insieme ai figli per trovare l'occasione anche magari per parlarne in terza persona di affrontare questo tema. Grazie a Raul Bova per essere stato con noi. Grazie a voi. Volevo dire soltanto un'ultima cosa, che volentieri. Noi siamo comunque, per noi questo film è stato anche per noi un inizio di un bel percorso e di tante situazioni, tante persone che hanno risposto al film, tra cui stasera per esempio andremo in alcune discoteche a presentare il film e a parlare con i giovani. Lunedì andremo addirittura a San Patrignano e poi andremo anche in alcune scuole che ci hanno invitato proprio per fare una proiezione e parlare proprio di questo tema. Quindi diciamo che cosa si può fare? Forse anche noi dello spettacolo o della radio o dei media in genere forse potremmo parlarne un po' di più e non dimenticare questo problema che comunque c'è ed esiste. Complimenti Raul, mi sembra un'ottima idea, grazie. Buona giornata. Arrivederci. Io volevo chiedere, abbiamo Carlo dalla provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno. Ci racconti, Carlo? Allora, le cose che state dicendo sono molto molto interessanti, però quello che a me sta dando fastidio il professore ha puntato il dito come al solito contro i genitori. E questo è un errore. È un errore gravissimo. Non mi sembra che abbia puntato il dito, Carlo, scusi, anche perché io sono genitore, sono sempre subito, mi sento subito. No, sicuramente il dottor Marzorati, ma è qui per cui non ha bisogno delle mie difese, diceva che sicuramente una comunicazione in famiglia che renda il genitore capace all'ascolto e metta il ragazzo nelle condizioni anche di raccontare magari il suo disagio. Non dimentichiamo che le ricerche lo dimostrano, la maggior parte dei ragazzi che poi usa queste sostanze sostanze, lo fa per moda, per emulazione, eccetera, ma anche per rispondere ad un freddo interiore, a questa mancanza di emotività. Comunque, Carlo, lei dice non i genitori, non puntiamo il dito su nessuno, ma secondo lei qual è il punto su cui bisognerebbe insistere e agire? Allora, ritornando sempre, ok, è giusto che ci sia un rapporto genitori-figli, sì. È giusto che ci sia un colloquio aperto, parlare liberamente, sì. Liberamente per quello che dobbiamo noi genitori, perché io sono stato ragazzo, quindi anch'io ho trascorso sì. La mia giovinezza. Carlo, ci dia la sua ricetta, perché siamo in chiusura, se no non riusciamo a raccoglierla. La ricetta è solo questa: parlare liberamente con i figli, però non dare mai la colpa ai genitori se accade questo, come sento in molte trasmissioni televisive, poverino il bambino, sa, i genitori sono separati, è morto il nonno, ha certo, capito? Ho capito, cioè, Carlo. Non è una scusante. Non è una scusante, grazie Carlo. Dottor Marzorati? Sì, non è assolutamente una scusante, ma non è questo, non vorrei entrarmi in questo certo. tema ora. Io volevo invece, abbiamo parlato molto di prevenzione, sì. Giorgia diceva vado nelle scuole medie, anche Raul Bova, i ragazzini. Allora, lei che lavora in un centro, in un servizio di tossicodipendenza, ci dica rapidamente quali sono i segnali che devono far insospettire i genitori, perché abbiamo parlato di prevenzione, ma ci sono genitori che si trovano dentro il problema. Ma abbiamo proprio una quarantina di secondi. Il ragazzo cambia, quali sono i segnali che possono farci rizzare le antenne? Ma allora, i segnali principali sono modificazioni di comportamento che possono essere anche acute. Un ragazzo che diventa irascibile, molto scontroso, o all'opposto, si ritira, si chiude improvvisamente, passa magari la domenica mattina a letto in casa, non mangia, non comunica più con i genitori. Oppure, se l'effetto della sostanza è ancora attivo, può esserci odore di fumo sui vestiti, oppure un alito alcolico molto forte, una condizione psichica confusa, dei movimenti piuttosto rallentati, insomma, delle situazioni di questo tipo. Torneremo sicuramente su questo tema, che mi sembra abbia suscitato interesse da parte di voi a casa. Intanto potete sempre scriverci a essere benessere@radio24.it. Salutiamo il dottor Marzorati, che ci ha dato una mano. Alberto. Sì, noi ci troviamo qua il prossimo sabato. Credo che questo è un tema che vogliamo di nuovo riaffrontare con le vostre storie, perciò ribadiamo, scriveteci cosa sta succedendo nelle vostre famiglie e noi cercheremo di aiutarvi. Buona giornata da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.